sopra al fallo questa grande civiltà. E ciò che mi lascia perplesso sono questi stessi perni, voi chiamate verità. Sediti accanto al fuoco, alimenta l'odio e fai che non si spenga più la fiamma. Su questa spiaggia a chilometri dal cielo nero soffia e non si spenga più la vita. E il mio richiamo alla natura mi fai sentire come il soffio del vento che verrà, anticipando tempesta e siccità. Che il nostro cuore batta ritmo quel giorno che sarà un canto per la società. Noi troppe volte abbiamo spartito casa, ufficio, cibo, fame, senza un po' di libertà, spezzando il tempo in mille attimi, accumulando soldi e tanta integrità. Sediti qui, ascolta il vento, senti bene il suo lamento, le sue complicità. Raccogli tutti questi istanti, non ci sono più rimpianti, solo la vita. Del suo richiamo alla natura mi fai sentire come il fuoco che scalda le città, o sempre che le brucerà. Che il nostro cuore batta ritmo quel giorno che sarà il canto della società.